Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Poco, ma quello giusto. Cosa sarà? Intanto buongiorno da Nicoletta. Apriamo oggi con un indovinello. Chiamatemi subito 800 24 0024. Io prendo tempo per darvi il tempo di comporre il nostro numero verde e per dare la risposta giusta. Intanto saluto la dottoressa Paola Reverso, medico nutrizionista, presidente dell'associazione Il Me Più Te e pilastro di Mangia Con Me. Buongiorno dottoressa Reverso. Buongiorno dottoressa Reverso, possiamo dare un aiuto? Poco sta per? Poco, almeno la metà, ma anche meno di quello che possiamo dare, consumiamo tutti i giorni, così li aiutiamo. Poco abbiamo detto, ma quello giusto. C'è un giusto, vero dottoressa Reverso? Certo che c'è un giusto raccomandato per la nostra salute, ma c'è anche un giusto per il nostro gusto, per scoprire nuovi sapori. Allora, noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio, abbiamo chiesto, vi abbiamo detto che è una cosa che usiamo tutti i giorni, ma quale usiamo? Andiamo a sentire il nostro mini sondaggio. Quello che vendono i supermercati. Dietetico. Normale. Marino iodato, credo, una roba così. Normale. Quello grezzo. Iodato. Fino. Quello che capita. Grosso. Iodato. Integrale. Fino. Grosso e fino. Io non lo uso. Fino e grosso da cucina. Sono fatti tutti. Ci siete quasi. Molti di voi mi scrivono il vino al 349-238-6666. Nell'attesa delle vostre risposte, intanto chiedo alla dottoressa Paola Reverso di darci un altro aiuto in più. Dottoressa Reverso, lo usiamo tutti i giorni. Lo usiamo tutti i giorni, ne aggiungiamo sempre un pizzico. Dobbiamo usarne meno generalmente di quelle che usiamo, perché tendiamo ad abusarne, ad usarne di più, e ce n'è un tipo che è caldamente raccomandato. In linea con noi abbiamo Margherita da Milano. Abbiamo già detto che non è il vino, Margherita. Ciao, no, anch'io ho pensato il vino. Forse potrebbe essere il sale, perché il vino non è un pizzico, non se ne usa un pizzico. Esatto, e Margherita, ci sa dire anche di che tipo, che sale? Abbiamo sentito integrale, marino, fino, grosso, iodato. Il sale marino? Il sale marino. Qua abbiamo bisogno, la risposta non è corretta. In linea con noi, Margherita, continui a seguirci. Intanto continuate a seguirci anche voi. Abbiamo il professor Pontecorvi. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli. Professore, allora, si dice sale, ma solo pochi delle persone intervistate per il nostro mini sondaggio hanno messo accanto la parolina giusta, che è iodato. Sì, sale poco, perché non si sa che il sale fa aumentare la pressione arteriosa, indurisce le nostre arterie, come si usa dire, quindi non fa bene usarne troppo. Non bisogna superare i 5 grammi al giorno di sale. Ma quale tipo di sale? È meglio usare quello iodato, perché l'Italia, nonostante sia una penisola circondata dal mare per buoni tre quarti della sua superficie, vede ancora uno scarso apporto di iodio con l'alimentazione, e questo favorisce l'insorgenza di malattie della tiroide. Quindi perché questo elemento è così importante? Che cos'ha di speciale? Lo iodio entra proprio nella struttura dell'ormone tiroideo. L'ormone tiroideo non è altro che un aminoacido modificato dall'aggiunta di 3 o di 4 atomi di iodio, le famose T3 e T4 che poi si misurano in circolo, gli ormoni tiroidei. E gli ormoni tiroidei agiscono sul metabolismo di quasi tutte le cellule del nostro organismo, in genere stimolandolo. Quindi lo iodio piace molto a una ghiandola di cui abbiamo parlato spesso, una ghiandola piccola ma molto importante, che ha molto a che fare con il nostro benessere, la tiroide. Senz'altro. Se lei funziona bene, tutto va bene. Se inizia a lavorare troppo, troppo poco, iniziano i problemi. Se lavora poco, professor Pontecorvi, che cosa succede? Se lavora poco abbiamo il cosiddetto ipotiroidismo, cioè la carenza di ormoni tiroidei, e questa determina proprio un rallentamento di tutti i nostri metabolismi, del nostro metabolismo. È un po' come se avessimo un freno a mano tirato. Esattamente, per cui la persona diventa più torpida in tutto quello che fa, anche nel modo di parlare, nel modo di ragionare, più frequente la tendenza alla depressione. C'è una difficoltà non tanto ad ingrassare, perché quello se accade nell'arco di vari anni, ma soprattutto a non perdere il peso giusto quando si mettono in atto delle manovre corrette, che sono poi l'attività, un aumento dell'attività motoria e una dieta ipocalorica. Mentre se funziona troppo? Se funziona troppo abbiamo l'inverso. E la cosa è drammatica, perché spesso, soprattutto nei giovani, l'ipertiroidismo, cioè l'eccesso di ormoni tiroidei, si presenta in maniera violenta e può causare anche dei fortissimi dimagramenti, anche di 5-7 kg in un mese, ma sono dimagramenti che vanno soprattutto a carico della massa muscolare, per cui il soggetto si sente molto stanco, non riesce a fare le scale ed è ovviamente ipereccitato, suda molto, ha la tachicardia, trema. Un soggetto ipertiroideo si riconosce appena lo si vede entrare in ambulatorio. Abbiamo in linea con noi Francesco da Palermo, 800 24 00 24. Buongiorno a lei, Francesco. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiornissimo, mi dica. Niente di particolare, io sono un agente di commercio, vado in giro per la bella Sicilia, vi ascolto sempre e mi complimento per tutte le vostre trasmissioni, in particolare quelle di contenuto economico e quelle di contenuto salutistico, diciamo così. Questa mattina appunto ho ascoltato adesso l'aspetto del sale, ho dato subito l'idea del sale iodato. Noi abbiamo nel Trapanese delle buone produzioni di sale, è un sale che io adopero, anche perché a fine dicembre ho scoperto di essere iperteso. Mi è stato consigliato dal medico di diminuire il sale, sì, che tutti noi siamo abituati a metterlo dappertutto, dalle patatine agli spaghetti a tutto. Certo. Io ho preso la buona abitudine di mangiare gli spaghetti con zero sale e devo dire a tutti, e lo consiglio a tutti questo, di ridurlo il consumo del sale, che gli spaghetti anche senza sale hanno un ottimo gusto. Francesco, nella pagina di Mangia con me, le ricette che ha scritto per noi la dottoressa Reverso, che sono molto gustose, sono assolutamente prive di sale. In più, per i nostri ascoltatori che vogliono avere degli trucchi, dei suggerimenti per ridurre la quantità di sale, io consiglio di andare sempre sulla nostra pagina, sulla pagina di Essere Benessere, perché abbiamo, in collaborazione con Mario Negri di Bergamo e sfruttando le competenze della dottoressa Reverso, abbiamo preparato per voi una serie di consigli per ridurre appunto il contenuto di sale nella nostra dieta. Quindi grazie a Francesco per averci chiamato, per averci raccontato come anche diminuire il sale porta assolutamente un beneficio per la nostra salute, ma noi diciamo usatene poco, ma usate quello iodato. Il professor Pontecorvi ci ha spiegato che lo iodio è un toccasana per questa ghiandolina, da cui dipende molto del nostro benessere. Dottoressa Reverso, questa ghiandolina che a volte cambia ritmo, cambia passo, e la condizione più frequente è che rallenti il passo, funzioni meno di quanto dovrebbe. Questo, come ci diceva il professor Pontecorvi, porta a disturbi della memoria, del tono dell'umore, ad un rallentamento del metabolismo e quindi anche un po' alle difficoltà di perdere peso, ma anche a un colesterolo un pochino più elevato. In questi casi può aiutarci la dieta? Ci sono alimenti da preferire, altri da limitare? Beh, la dieta può aiutarci insieme naturalmente anche all'attività fisica. Quali alimenti dobbiamo tenere più sotto controllo e magari mangiare in quantità minore o associarli in modo diverso? Per esempio tutti gli alimenti che contengono dei grassi saturi che quindi fanno alzare i livelli di colesterolo. Le carni, anche il pollame se ne contiene in misura minore rispetto alle carni bovine, tutti i formaggi, i latticini. Quindi dobbiamo scegliere in questi casi magari uno yogurt magro, aggiungere noi la frutta fresca, tenendo conto di usare della frutta con un apporto di zucchero un po' più basso e magari associare dei fiocchi, dei cereali in fiocchi integrali come i fiocchi di farro, i fiocchi di grano corassano, i fiocchi d'avena. Si trovano anche nella grande distribuzione. Ma dottoressa Reverso, noi abbiamo parlato di iodio. Dove lo troviamo lo iodio? Allora, lo iodio lo troviamo essenzialmente nei pesci, nei molluschi, nei crostacei. Pensate che in 100 grammi di alimento, tolte le lische, i gusci, insomma tutti gli scarti, si hanno circa dai 50 ai 100 microgrammi di iodio, quindi una buona quantità. Lo si trova in misura minore nelle carni, nel latte, nelle uova, e ci sono alcuni alimenti che, per esempio le rape, le cipolle, i cavoli, che possono ostacolarne l'assorbimento. Allora, quindi anche la dieta può aiutarci, e a proposito di alimenti, pensate, alla scuola Sant'Anna di Pisa hanno creato un super alimento, il pomodoro iodato. Pomodoro, mi va la pappa, che un capo popopopo lavoro, a viva la pappa, col pomodoro. La storia del passato. E in linea con noi abbiamo il professor Pier Domenico Perato, ordinario di fisiologia vegetale alla scuola di Sant'Anna di Pisa. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, perché vi è venuta questa idea? Beh, innanzitutto perché, come abbiamo appena sentito, nell'elenco degli alimenti che contengono iodio non troviamo i vegetali, anzi troviamo spesso dei vegetali che contengono degli interferenti endocrini, quindi delle sostanze che interferiscono con l'assorbimento dello iodio. Gli alimenti vegetali però sono poveri di iodio. Come mai? Ci siamo chiesti come mai questi alimenti non contengano iodio. Abbiamo quindi iniziato un progetto di ricerca che dura ormai da molti anni, abbiamo compreso quali sono i meccanismi di assorbimento dello iodio nelle piante e abbiamo capito che le piante assorbono in realtà iodio, ammesso naturalmente che il terreno su cui sono coltivate lo contengano. Lo assorbono ma poi non riescono a trattenerlo all'interno dei propri tessuti, lo evolvono in forma gassosa nell'atmosfera. Abbiamo però anche scoperto che il pomodoro, che è un alimento il principe della dieta mediterranea, assolutamente, quindi tra l'altro un alimento ideale per un progetto di biofortificazione di un alimento, gli alimenti biofortificati sono quelli all'interno dei quali ritroviamo in forma arricchita elementi fondamentali per la vita, per la fisiologia umana, quindi per la prevenzione di tutte quelle patologie che sono legate alle carenze, e quindi un alimento che deve essere presente nella dieta quotidiana, perché per poter apportare un microelemento come lo iodio nella dieta quotidiana occorre avere un alimento che sia parte della dieta quotidiana e che possibilmente sia arricchito di iodio. Abbiamo scoperto che il pomodoro è un ottimo punto di partenza. Lo iodio viene in questo frutto accumulato anche a dosi simili a quelle che abbiamo sentito essere presenti nel pesce, ad esempio. Quindi in realtà abbiamo avuto in alcuni esperimenti quantità superiori alla dose giornaliera, quindi anche 200 microgrammi per 100 grammi di pomodoro. Professore, ma il pomodoro che avete ottenuto, questo superalimento, è un vero pomodoro, tutto naturale? Assolutamente OGM sì. Free? Sì. Assolutamente sì, non si tratta di una nuova varietà, si tratta della scoperta del fatto che il pomodoro, di fatto tutti i pomodori, hanno questo potenziale, hanno cioè il potenziale di poter accumulare iodio, lo ripeto, a patto che lo iodio sia presente nel terreno. Certo. Professor Pontecorvi, cosa ne pensa del pomodoro iodato? No, penso sia una buona iniziativa, c'è già credo anche in commercio la patata allo iodio, quindi è un modo naturale per arricchire di questi oligoelementi che in genere si trovano poco, come dicevo all'inizio, nella nostra alimentazione, che invece sono fondamentali. È fondamentale apportare iodio nella quantità di 150 microgrammi al giorno, e questo in Italia riesce molto difficile perché proprio nelle terre italiane c'è poco iodio. Ecco, sembra impossibile, ma lei come ci ha spiegato che insomma lo iodio se ne va rapidamente, non perché noi pensiamo siamo circondati dal mare, com'è possibile che ci sia una carenza di questo elemento. Professor Perata, prima di salutarla, il pomodoro attualmente non è in commercio. No, non sono in commercio pomodori arricchiti in iodio, anche se è vero quello che diceva il professore, esiste una patata iodata in commercio che ha un contenuto, se non sbaglio, di circa 30 microgrammi per 100 grammi di prodotto. Non esiste, sarebbe auspicabile che nei programmi di sviluppo agricolo del nostro paese si puntasse anche alla biofortificazione con iodio di una vasta gamma di alimenti, il pomodoro lo abbiamo detto, ma immaginiamo anche ad esempio altre verdure, così da avere la possibilità con una dieta magari più ricca di alimenti vegetali che non di alimenti animali, di avere un apporto corretto di iodio nella dieta quotidiana, magari anche rinunciando nei casi in cui le prescrizioni mediche non lo suggeriscano il sale iodato, perché certo, come abbiamo detto, il sale iodato va sempre usato, salvo nei casi in cui non vi siano delle indicazioni precise che ci facciamo spiegare dal professor Pontecorvi nel corso della trasmissione. Professor Peratta, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Le auguro una buona giornata. Professor Pontecorvi, non di solo iodio vive la tiroide, ma anche di selenio. È vero, questo è un altro micronutriente, un oligoelemento che entra nella struttura di diversi enzimi che hanno a che fare con la distruzione dei cosiddetti radicali liberi, quindi sono le sostanze antiossidanti che un po' prevengono patologie e malattie croniche, un po' prevengono l'invecchiamento della nostra pelle, delle nostre arterie, ma per quanto riguarda la tiroide, il selenio entra nella costituzione, nella funzione di alcuni enzimi che sono capaci di attivare gli ormoni tiroidei. L'ormone tiroideo è prodotto dalla ghiandola tiroide, ma viene poi attivato a livello di tutti i tessuti periferici, diventa molto più potente, la T4 viene trasformata in T3 proprio da questi enzimi che contengono selenio, per cui è necessario apportare la giusta quota di selenio. Dove lo troviamo, dottoressa Reverso, il selenio? Anche qui il selenio lo possiamo trovare nei pesci, soprattutto tonno, salmone, ma anche le nostre acciughe che fanno più parte della nostra dieta mediterranea, e poi nelle carni, nei cereali integrali, quindi cereali integrali in chicchi, in fiocchi, e pensate che la pasta contiene più selenio, la pasta integrale, rispetto al pane. I latticini, il tuorlo d'uovo, anche il germe di grano, il lievito di birra, per esempio, il germe di grano in scaglie si trova facilmente nelle erboristerie, nei supermercati del biologico e anche nella grande distribuzione si può trovare, e si può tranquillamente aggiungere alle verdure, l'importante è aggiungerlo sempre a freddo. Non a cottura, sulle verdure, anche sulla macedonia si sposa bene, nello yogurt che magari in estate lo gradiamo di più, ecco. Oppure semplicemente su una pasta integrale condita con del buon olio extravergine d'oliva, magari qualche erbettina aromatica che adesso possiamo usare quelle fresche, il germe di grano si sposa molto bene. Allora, quindi basta poco per dare alla nostra tiroide tutto quello che le serve per funzionare bene. Professor Pontecorvi, ricordiamo i segnali che ci possono far venire in mente che la nostra tiroide può avere dei problemi. Ricordiamo se funziona poco, lei l'ha definito una sorta di così rallentamento. Sì, c'è stanchezza, c'è difficoltà a perdere il peso, c'è una tendenza ad avere un umore un po' depresso, una difficoltà a ricordarsi le cose, soprattutto le cose recenti, c'è un lieve aumento del colesterolo, come ricordava lei, e questo alla lunga contribuisce ad aumentare il rischio per malattie cardiovascolari. Mentre se funziona troppo siamo tutti in accelerazione. Possiamo, ecco, 800 24 00 24, attenzione, la tiroide fa un po' di preferenze, possiamo dire che la tiroide donna e siamo noi donne a doverla controllare. Io invito alle amiche all'ascolto a farlo e ad approfittare della settimana, infatti dal 18 al 25 maggio si svolgerà su tutto il territorio nazionale la settimana della tiroide. Sono delle giornate dedicate allo screening delle malattie tiroidee, promossa dall'Associazione Italiana della Tiroide, e proprio lo scopo di questa iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica e anche il mondo scientifico sui crescenti problemi legati alla malattia della tiroide, il loro impatto sulla salute della donna e sulla gravidanza. Mi raccomando, controllate la vostra tiroide e se avete dei dubbi, oggi parliamone insieme. Essere e benessere. Amo il sale della terra, amo il sale della vita, amo il sale dell'amore, amo il sale che c'è in te. Parlavamo di sale iodato, un sale raccomandato perché lo iodio piace a questa ghiandola da cui dipende la nostra salute e il nostro benessere, è la tiroide. In linea con noi abbiamo il professor Pontecorvi. Professore, spesso questa ghiandola va in tilt, come possiamo accorgercene e quali sono gli esami che è opportuno fare per valutare il suo stato di salute? Guardi, l'esame è semplicemente uno, io doserei il TSH, siamo in tempi di ristrettezze economiche, non sì. possiamo permetterci sprechi, e misurando il TSH, che è un ormone che regola la funzione tiroidea, noi riusciamo in maniera molto sensibile a capire come sta funzionando la tiroide, per cui se il TSH è alto vuol dire che la tiroide sta funzionando di meno, mentre se il TSH è basso vuol dire che la tiroide funziona di più. Ipertiroidismo e ipotiroidismo, ma si, fatta la diagnosi, si riesce a far lavorare la tiroide di nuovo bene, a farle riprendere il passo? Senz'altro, è una terapia molto semplice, quando la tiroide funziona di meno, cioè produce meno ormone, bisogna aggiungere l'ormone che manca alla giusta dose e questo lo si può fare per bocca. Quindi è una terapia molto diversa da quella che per esempio si fa per il diabete, in cui manca l'insulina, bisogna dare l'insulina, ma l'insulina bisogna iniettarla e anche più volte al giorno. Qui basta una pillola una volta al giorno e anche se uno se la dimentica non succede granché. Mentre se la tiroide funziona troppo e va frenata, c'è modo di farlo e poi la tiroide riprende o a funzionare con il passo giusto o siamo legati a integrazioni e farmaci per tutta la vita? No, in genere dipende dal tipo di malattia che causa l'ipertiroidismo. In genere si inizia con una terapia medica, quindi una terapia che frena la funzione tiroidea, ma si può poi intervenire in maniera definitiva o chirurgicamente, oppure bruciando la tiroide con lo iodio radioattivo. La tiroide capta lo iodio, no? Come abbiamo detto finora, per fare i suoi ormoni, noi gli diamo lo iodio radioattivo che viene captato dalle cellule tiroidee e dall'interno questo iodio le può distruggere. È chiaro che poi si diventa ipotiroidei e quindi dovremo assumere la terapia ormonale di cui dicevo prima. Professor Pontecorvi, abbiamo sottolineato l'importanza del sale iodato, ma il sale iodato va bene per tutti? Intanto giovani, meno giovani, bambini, donne in gravidanza, e va bene indipendentemente da come la tiroide funziona, se funziona troppo, se funziona poco? Intanto volevo dare la parola ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, e poi daremo le indicazioni precise. Intanto ci chiama Caterina dalla provincia di Roma. Caterina, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. E proprio su questo tema io volevo porre la mia domanda. Sia io che mio marito siamo ipotiroidei, quindi da 12 anni la nostra pasticchetta al mattino la prendiamo e stiamo benissimo. Sì. Abbiamo due figliole femmine, 10 e 12 anni, e a questo punto vorrei sapere, il sale iodato che noi assumiamo costantemente, io e mio marito faccio una volta un chilo, utilizziamo un chilo di sale iodato, dopodiché il sale marino integrale, alterniamo, vorrei sapere se per le mie figliole, che al momento non soffrono di alcuna patologia legata alla tiroide, è necessario questo sale iodato oppure va bene un altro sale, sempre naturalmente in quantità limitata? Professor Pontecorvi, vede che gli ascoltatori ci aiutano sempre. Allora, abbiamo delle indicazioni precise? Sì, ed è una sola. Il sale iodato va usato da tutti, non si possono fare distinzioni perché bisogna coprire al massimo la popolazione. È chiaro che ci sono alcune sacche di popolazione, nicchie di popolazione alle quali il sale iodato potrebbe non far bene, ma quando si fa un discorso di costi e benefici, sì, bisogna mettere sulla bilancia entrambe le possibilità. Fa molto più bene a tutta la popolazione se noi diamo un messaggio univoco, va usato da tutti. Nel caso della signora in particolare direi di sì, il sale iodato va usato soprattutto nei bambini perché serve ad evitare la formazione del gozzo e dei noduli della tiroide, questo è lo scopo principale e lì bisogna prima si parte e meglio è. Ma se sono presenti noduli o se la persona è ipertiroidea, cioè ha la tiroide che funziona tanto, gli hanno fatto la diagnosi e quindi sa qual è la sua condizione, è opportuno che usi il sale iodato oppure no? Teoricamente non è opportuno, ma la quantità di sale di cui stiamo parlando, 150 microgrammi al giorno, è bassissima e non determina grosse differenze a livello di funzione della tiroide di giorno in giorno. Quindi direi che il messaggio da dare è quello che il sale iodato va usato da tutta la popolazione indistintamente. È una raccomandazione. È chiaro che un soggetto ipertiroideo, però sì, se si astiene forse è meglio, ma il messaggio è il primo che ho detto. Daniela da Cuneo e poi Mimma da Bari, prima delle informazioni sul traffico intanto vi invito a comporre il nostro numero verde 800 24 0024. Daniela, buongiorno. Buongiorno, anche io ho un problema per quanto riguarda la tiroide. Sì. Praticamente sono 15 anni che prendo al mattino Euthyrox 025 perché funziona poco. Sì. Al momento in cui mi hanno prescritto questa pastiglia Euthyrox, la dottoressa mi ha detto: mi raccomando, niente sale iodato, niente somatoline che contiene alghe, fucus e cose del genere. Ecco, invece... c'è un contrasto con quello che dice il professor Pontecorvi, perché spesso siamo bersagliate da informazioni che sembrano tra loro contrastanti. Professor Pontecorvi. No, allora, la signora innanzitutto prende una dose pediatrica di ormone tiroideo, 25 microgrammi è una dose troppo bassa per una persona adulta. Non c'è nessuna incompatibilità tra l'assunzione di sale iodato e una terapia che si sta facendo con ormoni tiroidei o per noduli della tiroide o perché la tiroide funziona di meno. Sì. E quindi non c'è nessun motivo di non assumere il sale iodato. Per quanto riguarda le creme che contengono non solo il fucus, ma la somatolina, per esempio, di cui parlava, contiene anche proprio gli ormoni tiroidei, la tiroxina, beh, è un discorso a parte che meriterebbe un'intera trasmissione. Meriterebbe un'intera trasmissione, ma di questo parleremo anche tra poco, perché ne parleremo con la dottoressa Serri, proprio perché con lei affronteremo questo tema. Molti cosmetici contengono ormoni tiroidei che sono presenti appunto nella composizione di alcune creme, specie quelle utilizzate per contrastare la cellulite, ci sono però delle alternative nel caso. Andremo a leggere l'etichetta con la dottoressa Serri subito dopo le informazioni sul traffico. Tempo di sentire un attimo Mimma da Bari. Mimma, rapidissimamente prima delle strade. Via. Parli lei, Mimma. È caduta. Allora, dopo le informazioni sul traffico, Mimma da Bari. Essere e benessere. Ecco, ci siamo tornati, in linea con noi abbiamo la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa presidente di Skineco. Buongiorno dottoressa Serri. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Firma anche del nostro Daily Lab. Dottoressa Serri, cosmetici che contengono nella formulazione ormoni tiroidei, vengono usati, sono spesso cosmetici che noi donne utilizziamo per contrastare la cellulite. Che cosa possiamo, che alternative possiamo avere? Beh, le alternative le dobbiamo trovare, anche perché quelli a base di ormoni tiroidei non sono cosmetici, sono dei veri e propri farmaci che non sono assolutamente, come abbiamo visto, adatti a tutti, anzi possono anche creare dei severi problemi. Quando io da ragazzina usavo la crema agli ormoni tiroidei e moltissime ragazze l'hanno messa sin dai tempi dei tempi, mi ricordo delle tachicardie pazzesche, non stavo per niente bene e effettivamente gli ormoni tiroidei penetrano e come, per cui si tratta di farmaci. Perché la pelle respira ma si nutre anche. La pelle si nutre, la pelle è un organo di assorbimento, la pelle se ne frega altamente delle leggi che dicono fino a qui l'ingrediente non può può andare oltre, è un cosmetico, oltre un farmaco, e la pelle assorbe molte più cose di quelle che pensiamo. Per questo è fondamentale che sulla pelle noi mettiamo dei prodotti più che sicuri e più che anche ecodermocompatibili. Per esempio, nel caso della cellulite, sì, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stimolare la microcircolazione, stimolare la lipolisi, stimolare la mobilizzazione di questi tralci, anche depositi di grasso e tralci connettivali che per via della degenerazione si formano. Quindi ci sono prodotti vasculotropi a base di sostanze come la centella, l'ippocastano. Vasculotropi vuol dire che stimolino la circolazione. Tutto quello che stimola lo scorrere del sangue, che aiuta a tenere la parete dei vasi, aiuta anche a migliorare il peggioramento e l'insediamento della cellulite. Ma ci sono anche dei cosmetici utilissimi a base, per esempio, di caffeina. Lina? Un'altra molecola molto interessante per la cellulite è il cacao. Quindi il cacao non caffeina, solo non va più, cacao, caffeina, c'è cacao e anche il tè verde, per esempio. Per cui in modiche quantità sono utili anche assunti per bocca. Quello che fa male è l'abuso, certo, e l'uso non delle sostanze pure, ma delle sostanze lavorate. Quindi ricordiamo: centelle, ipocastano, caffeina, cacao e tè verde. Sembra di fare la spesa, esatto, dottoressa Serri. E anche il peperoncino è aggiungiamo utile. Il peperoncino. E anche il peperoncino. A tutto questo, naturalmente, aggiungiamo una dieta varia ed equilibrata e il movimento. È fondamentale. Muoversi è importante, sia perché se noi teniamo bene i muscoli e li sviluppiamo modicamente, non serve avere i muscoli ipertrofici, serve avere dei muscoli sviluppati. Insomma, quando i glutei vanno su, il cuscinetto di cellulite diminuisce. Certo, basta, quando il gluteo va su, la cellulite va giù. Ecco. E inoltre camminare, muoversi, camminare velocemente, saltare la corda, non solo aiuta a fare i muscoli e a far andare giù e via la ciccia e la cellulite, ma aiuta la circolazione. Aiuta a sgonfiarsi, aiuta a limitare la ritenzione idrica. Quindi aiuta moltissimo a essere proprio più in forma. Grazie dottoressa Serri per essere stata con noi. Quando il gluteo va su, la cellulite va giù, mi piace, me la segno. Ecco, benissimo, è il nostro motto di oggi. E fare la scala a piedi. Grazie dottoressa Serri per essere stata con noi. Potete naturalmente leggerla, e vi invito sempre a fare un saltino sul nostro Daily Lab e anche su Mangia con me. E oggi in linea abbiamo il primo partecipante del nostro reality Mangia con me, Davide. Ciao Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Ormai ti devo chiamare dottore, perché nel frattempo, oltre a mangiare meglio, tu ti sei anche laureato. Sono entrato nella schiera dei dottori che non curano, però. Fantastico. Senti, con te apriamo una nuova fase di Mangia con me. Sei in una specie di apripista. Tu ormai sei il re del mettiti alla prova, perché stai hai metabolizzato le indicazioni dei nostri esperti e ti sei proprio messo alla prova. Ci regali un trucco, una ricetta, esatto, qualcosa che sì, hai imparato, che la condividiamo, e sentiamo la dottoressa Reverso se ti laurea, se ti promuove o se ti rimanda? Molto volentieri. Una ricetta che mia madre ultimamente mi ha fatto spesso e che mi piace molto è la zuppa di legumi, che consiste nella semplice unione di piselli secchi, fagioli bianchi, orzo perlato, cotta con poco olio, sale, che dopo stamattina aggiungerei rigorosamente iodato, curcuma, carota, cipolla e sedano. Senti, devo dire che è molto buono. Davide, tu ti senti meglio dopo questa avventura di Mangia con me? Sicuramente sono migliorato e posso dire di aver elaborato una migliore cultura alimentare. Perché sei diventato autonomo, questo è un po' l'obiettivo di Mangia con me, renderci autonomi, insegnarci ad usare gli alimenti per il nostro piacere, ma soprattutto per il nostro benessere. Dottoressa Reverso, soddisfatta di Davide? Molto, bravissimo, e bravissima anche sua mamma, e mi sembra anche la nonna, anche lei è un'ottima cuoca. So che andrai in Spagna, Davide, mi raccomando, aggiornaci sul nostro blog. Porta un po' di mangia con me anche in Spagna. Va benissimo, racconterò di noi. Sarà contento anche il professor Pontecorvi, perché dopo questa nostra trasmissione anche Davide ha detto: aggiungerò sale iodato. È meglio aggiungerlo a fine cottura, professor Pontecorvi? Ma qui si dibatte, io lo aggiungerei come il sale normale. Certo, il sale iodato tende a evaporare di più, quindi per esempio ha poco senso metterlo nell'acqua della pasta. Ecco, mia madre usa metterlo all'inizio, quando l'acqua ancora deve bollire, e ritengo che poi rimanga ben poco dello iodio. Vede, come tutti i figli trovano sempre uno sbaglio della loro mamma, quindi usate ad esempio il sale iodato, meglio quello fine. Grazie al professor Pontecorvi e alla dottoressa Reverso. Mi raccomando, anche voi continuate a seguirci. Domani ci sarà un altro partecipante di Mangia con me, con una ricetta, con un trucchetto che hai imparato grazie ai consigli dei nostri esperti. Anche voi però che ci seguite da casa potete come sempre dire la vostra sulla pagina di Mangia con me. Infatti c'è una sezione che si chiama Tocca a te, che è dedicata proprio a voi che ci seguite da casa. Lì potete sbizzarrirvi, scrivere ricette, commentarle, darci i vostri trucchi, i vostri suggerimenti. Mi raccomando, scrivete, teniamoci in contatto anche sul nostro profilo Facebook. Ringrazio Filippa Oreggi, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, sempre bravissima. Voi che ci avete seguito, se volete io domani alle 11 vi aspetto. Grazie. Essere e benessere.